9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon autunnale inizio di settimana estiva, come devo dire, almeno qui a Milano, lunedì 11 giugno, sembra di essere più o meno ottobre inoltrato. Auguri a tutti coloro che si chiamano Barnaba. E il tema della puntata di oggi, ma siamo un po' mixed feelings, come si direbbe, nel senso che bisogna da una parte tenere l'orecchio aperto ai mercati che stanno reagendo molto bene, lo avete sentito al giornale radio, all'intervento che si è deciso di fare venerdì, e si è meglio precisato sabato, di 100 miliardi dei fondi europei cooperativi a sostegno del sistema bancario spagnolo, senza imporgli la troica, senza l'umiliazione del fondo monetario che invece abbiamo stabilito ovviamente per la Grecia. Bisognerà vedere se questo è un segnale che ferma davvero l'eurocrisi oppure dura un giorno la fiducia dei mercati. Vediamo, perché sono settimane molto toste di qui al post voto greco del 17 di giugno, quindi attenzione. Oggi la risposta sarà positiva, ma bisogna verificare la risposta nel medio-lungo periodo, anche perché i contagi bancari non sono finiti. 100 miliardi per la Spagna oggi non esauriscono certo il totale degli asset liquidi del sistema bancario europeo. Se li concentriamo tutti sulle banche, cosa succede poi agli stati che hanno problemi di rientro in finanza pubblica, e se la fanno ai ritmi a cui è stato loro imposto, vanno in recessione profonda, e questo lo vedremo nel caso greco. E comunque è stato un negoziato, vedremo come. E questo primo filone da seguire, qualche approfondimento dopo queste prime parole lo farò comunque con la stampa europea, ma più avanti. C'è un filone che invece è il nostro classico, perché sentirete che anche gli ospiti di oggi sono sui tre filoni. Primo, dell'ascolto delle imprese e degli imprenditori, perché le lettere continuano ad arrivarci a disperati mai. Capisco che probabilmente ai sostenitori del tutto va bene, non c'è alternativa, farebbe piacere che le lettere non ci arrivassero più e che noi non ne parlassimo più, ma invece le lettere continuano ad arrivare, e sono migliaia e migliaia, e c'è un tessuto di piccola impresa italiana che continua a soffrire, che continua a non avere interlocutori e che non ha un interlocutore, e questo mi duole molto dirlo, per quello che noi abbiamo sperato in questo governo, in un governo che parla con l'algidità e la durezza che si è ulteriormente accentuata da parte del Premier Monti in questi giorni, da quando probabilmente ha capito che il governo si è incartato sul serio e che la ragioneria generale dice no a Passera, come diceva no a chi criticava Tremonti, che i problemi sono lì. L'accelerazione del Presidente del Consiglio è stata l'accelerazione con queste nomine in cui si cerca ovviamente una qualità e un criterio completamente diverso, e in questo credo che il Premier abbia profondamente ragione, dalle nomine pro partito che ci avevano fatto veramente criticare, io ero andato anche oltre con toni veramente sprezzanti, perché i partiti in quelle scelte per la GCOM avevano fatto comprendere di essere lontani anni luce dai messaggi che gli elettori gli mandano. Devo ammettere però che l'idea di mettere personalità fuori dalle congreghe partitiche è un bene. La Tarantola, cioè vice direttore generale della Banca d'Italia, è una persona straordinaria, al netto che anche la sua vigilanza in Banca d'Italia a me non ha convinto, lo dico fuori dai denti, perché sono intervenuto in sede tecnica spiegando perché non è tanto tema da trasmissione di massa, perché si dovrebbe entrare in tecnicalità su come la vigilanza della Banca d'Italia ha esercitato le sue funzioni in diversi istituti che poi sono finiti comunque con problemi seri. Ma detto questo, probabilmente bisognava cercare non solo qualcuno estraneo alla logica dei partiti, perché la RAI ha bisogno di stare lontano dai partiti, ma anche qualcuno che avesse un minimo, almeno incidentalmente, di vaga competenza, perché altrimenti basta arruolarli sulle flotte spaziali degli alieni, e non è un buon criterio, capite? Adesso mi state dicendo molti di voi, ma comunque un bene fuori dai partiti, sì, non si discute, questo è un bene primario. Detto questo, ripeto, forse Monti, nell'eccesso di reazione alle difficoltà che vive intorno a sé, quello che gli ha fatto denunciare la Confindustria, i poteri forti, capite, non sopporta gli editoriali del Corriere della Sera, ne ha scritti per anni. I governi devono accettare che la stampa esista per quello, oltretutto non li accetta perché Giavazzi e Lesina lo scavalcano in termini di mercato e interventi che a minori costi per il paese farebbero funzionare l'economia, e allora ne devo dedurre che nei confronti del sottoscritto, di chi la pensa come noi, Monti userebbe B52 se ha usato il linguaggio che ha usato. Oggi per esempio trovate su Repubblica il Presidente del Consiglio che difende orgogliosamente, brando alla mano, dalle considerazioni che aveva fatto Scalfari ieri su Repubblica, il Ragioniere Generale dello Stato, oltre al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà e al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia, e ieri queste tre figure erano state accusate da Scalfari, e io non sono d'accordo, in quanto titolari di posti a loro indicati o assegnati o attribuiti o procurati da Gianni Letta e Tremonti, nemici, quindi via. Questa era l'accusa di Scalfari, che come sempre ha un'idea un po' radicale di chi dovrebbero essere le persone buone al paese, quelle che stanno nel campo giusto, le altre le puriamo. E questa concezione dello spoil system è il peggio del peggio della muscolarità della politica, e Scalfari è totalmente da sempre proteso in questa muscolarità, e chi lo segue, suo disegno liberale, non è liberale manco per il piffero, perché è una concezione totalmente unilaterale e brutale, da socialista mascherato, collettivista mascherato quale Scalfari, della lotta politica. Togliti tu che mi ci metto io. E Monti oggi risponde, secondo me, giustamente dicendo: no, io perché avrei dovuto cacciarli solo perché indicati da altri? Ma il problema è che li difende nel merito, quando invece, secondo me, le persone apicali della pubblica amministrazione andrebbero sostituite o meno a seconda di come svolgono la loro funzione. Della Ragioneria Generale mi avete sentito dire che si è interpretata oramai come depositaria della facoltà di scrivere le norme sulla contabilità pubblica e il perimetro pubblico dello Stato, di interpretarla, di dare i bollini preventivi e successivi. La Ragioneria qui non è questione di mandare a casa il Ragioniere Generale, è questione di mettere un Ministro dell'Economia capace di dire e di scrivere provvedimenti, cioè di indicare quello che vuole, se vuole restringere il perimetro dello Stato, cedere asset pubblici per affrontare l'eccesso di debito pubblico, che così si affronta in un paese squilibrato come il nostro, non col piede premuto sul conto fiscale e le tasche dei cittadini, non può, se vuole affermare questo indirizzo, un ministro accettare che il Ragioniere Generale gli dica non si può fare, perché è una specie di ribaltamento della realtà, quello del vertice amministrativo dello Stato, che è diventato il corpo degli scribi del faraone che tutela lo Stato stesso. Ecco, questo è quello che mi aspettavo. Invece Monti no, li difende nel merito, cioè difende nel merito un Ragioniere Generale sovraordinato a un governo, che infatti finisce per dire che il rigore è solo quello delle tasse. No, il rigore non è solo quello delle tasse, il rigore è di uno Stato. Nel nostro paese noi non abbiamo il problema spagnolo, che è un eccesso di consumi privati finanziati a debito, la bolla immobiliare. Non abbiamo il problema greco, che è un paese privo di economia, manifattura, export, e con una bilancia dei pagamenti totalmente squilibrata, che ha vissuto a sbafo sull'euro. Noi siamo un paese che ha un problema di eccesso di consumo pubblico finanziato a debito, perché lo Stato italiano non ha pari, in quanto vorace larva che si trasforma in mostro giorno dopo giorno. Questo è il problema italiano. Il rigore si affronta rimettendo a posto questo mostro. Non è un rigore uguale in tutti i paesi. E comunque da noi il mostro dice che l'unico rigore si fa con più tasse. Viva viva il Ragioniere Generale. Io non sono d'accordo con nessuna di queste cose. E allora comincio, prima di presentarmi i nostri ospiti, sentendo i nostri tre filoni. La prima cosa prima ancora di presentarvi gli ospiti volevo sottoporvi la lettera che ci ha mandato un ascoltatore, si chiama Simone Prantera, e a proposito di efficienza dello Stato, che insegna ai vostri bambini le fiscostrocche, ne abbiamo parlato mezz'ora fa, ai bambini si insegna, ai bambini dice fate i delatori se non vedete gli scontrini, segnalateci il papà e la mamma che vengono meno all'obbligo fiscale di trasparenza nei confronti dello Stato. Allora, il nostro ascoltatore Simone Prantera ci scrive: decido di controllare la mia posizione fiscale sul sito di Equitalia, richiedo dunque il PIN online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mi viene inviata la prima parte via SMS, ricevo una telefonata dall'INPS, che mi chiede conferma della mia richiesta. Quarto, non ricevo via posta la seconda parte del PIN, quindi ricomincio dal punto 1. Quinto, finalmente ricevo il PIN dopo 2 mesi su un foglio accettato a colori che sarà costato l'ira di Dio. Sesto, provo a collegarmi al sito dell'Agenzia delle Entrate. Settimo, per autenticarmi devo fornire nell'ordine il mio codice fiscale, il mio codice di tessera sanitaria, la prima parte del PIN, la seconda parte del PIN, la scadenza della tessera sanitaria. Ottavo, la mia tessera sanitaria è scaduta. Nono, vado sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Decimo, mi accerto che non è possibile chiedere copia online. 11, telefono al numero verde. 12, mi dicono che devo andare alla ASL perché il tesserino è stato spedito ma non è stato recapitato. 13, riprovo online chiedendo un duplicato visto che il documento era stato emesso. E naturalmente devo però fornire nome, cognome, data di nascita, tipo dichiarazione dei redditi, cifra esatta della mia dichiarazione di 2 anni fa, ovvero del 2010. 14. Torno sul sito di Equitalia. 15. Inserisco il codice fiscale. 16. Inserisco la prima parte del PIN e la seconda. 17. Riesco a autenticarmi, ma mi viene chiesto di cambiare il mio PIN con un PIN analogamente lungo. 18. Dopo aver cambiato il PIN analogamente lungo, mi viene chiesto di inserire il vecchio PIN. 19. Dopo aver cambiato il vecchio PIN lungo, mi viene richiesto il nuovo PIN lungo. 20. Entro finalmente nella mia sezione. 21. Clicco sul mio carrello RAV. 22. Il sito mi risponde. Codice errore. Torna all'home page. E ancora oggi è così. Ecco, questa è un'ottima, ottima prova dell'efficienza pubblica di questo Stato che fa recitare ai vostri figli oramai nelle scuole la fiscostrocca, in cui chiede di diventare delatori a favore dello Stato. Questo è quello che ci dà in cambio. Non sempre, non solo, ma il mio compito è di occuparmi naturalmente il mio compito è quello di occuparmi essenzialmente di quello che non funziona. Allora abbiamo un problema perché vedo che l'ospite nel frattempo non c'è. Perché non c'è? Perché gli si è allagato l'esercizio e quindi è alle prese con un altro problema. E allora intanto andiamo al secondo ospite, ma vi dovrò leggere la lettera del nostro Campofranco, che purtroppo è alle prese con altri problemi oltre a quelli che ascolterete nella sua lettera. Anzi, io procedo in breve immediatamente a leggervi la lettera di chi non può essere al nostro microfono. Salve, vorrei portare la mia testimonianza di piccolo imprenditore, costretto a diventare tale a causa di un improvviso e ingiustificato licenziamento prima e della totale impossibilità a trovare un qualunque impiego poi. Grazie a un piccolo prestito personale concessomi dalla banca di cui sono cliente da 22 anni, Carisbo del gruppo San Paolo, all'onestissimo tasso, si fa per dire, del 15,02%, cioè a un passo dalla soglia dell'usura. Ecco, grazie a questo io purtroppo da poche settimane ho aperto una piccola attività commerciale a cui dedico ogni energia. Ho 38 anni, ero un manutentore elettromeccanico. Mi è ancora difficile usare il passato. Lo scorso settembre sono stato licenziato in tronco con dei falsi pretesti per non essere impiegato o spezzato dopo mesi di dimansionamento e mobbing. Evito di entrare nei dettagli, ma grazie alla solidarietà di numerosi colleghi pronti a rischiare la loro serenità, mi sono rivolto a un legale per ottenere giustizia, risarcimento e o reintegro sul posto di lavoro. Vedremo. Ma oggi, per la prima volta, dopo 9 mesi senza stipendio, abbiamo avuto la prima udienza con il giudice, che si è presentato in tribunale con un bel po' di ore di ritardo. Dopo la dichiarata volontà del giudice a non celebrare il processo per un eccesso di case da eseguire, ci invita a trovare, seduta stante, un accordo economico per chiudere la vicenda. La controparte ha offerto una cifra lorda talmente bassa che probabilmente non avrebbe nemmeno coperto le spese legali da me sostenute. Ingenuamente, forse, abbiamo chiesto 40.000 euro, ritenendo che la perdita di un lavoro a tempo determinato e ritrovarsi improvvisamente senza l'unico reddito che entrava in casa avesse un peso. Tralasciando l'accanimento, i danni morali, le notti insonni ormai incalcolabili, ritrovarsi a vivere due con la signora di disoccupazione dell'INPS di 900 euro circa, un mutuo da pagare, mi sarei aspettato che il giudice, al quale io stesso pagavo e pago lo stipendio tutti i mesi per lavorare 3 ore al giorno, queste sono parole naturalmente del nostro ospite, si fosse almeno preso il disturbo di leggere almeno qualche riga della nutrita documentazione prodotta, testimonianze, prove, eccetera, eccetera. Ma il giudice aveva a malapena letto l'intestazione del caso Ciò malgrado mi invita a prendere 12.000 euro lordi comprensivi delle spese legali e godermeli piuttosto che tirarla lunga, anni e anni, sue parole. Avrei voluto poter rispondere e chiedere al giudice se fosse disposto a lasciare improvvisamente il proprio lavoro, che probabilmente riterrà di svolgere impeccabilmente, per un totale di 12.000 euro lordi da cui decurtare le spese legali. Ovviamente non rispondo così, il mio rifiuto di accettare l'elemosina provoca nel giudice una reazione stizzita per il fatto di dover comunque portare avanti la causa. Prossima udienza, giugno 2013. Ecco, e in quei momenti, naturalmente, il mostro che è in me si scatena. Personalmente, lo dico senza timori, piuttosto che togliermi la vita come alcune persone disperate hanno troppe volte fatto, opterei per attentare a quella di chi vuole il mio male, il mio sangue. Ma in fondo si tratta solo di una causa di lavoro, dove una famiglia senza reddito attende giustizia col frigo talmente vuoto l'aver deciso saltuariamente di spegnerlo. Racconto tutto ciò perché la prima cosa a cui ho pensato una volta uscito dal palazzo dell'ingiustizia è stata la Fornero, la sua riforma del lavoro. A cosa serve una riforma se già oggi si può licenziare un dipendente lasciandogli un pezzo di pane? Ecco, la conclusione della lettera, che vi risparmio, è in realtà di totale solidarietà poi ai suoi nuovi colleghi imprenditori. Ma io ho voluto leggervi la parte iniziale della lettera, perché siccome molti ascoltatori ritengono che noi stiamo unilateralmente sostenendo una campagna a favore solo dell'impresa, non è così. I morsi della crisi vanno sul lavoro dipendente, sui collaboratori, sulle imprese che si reggono in piedi con buoni fondamentali ma sono travolti da chi non viene pagato anche nel mondo privato. Poi in testa tutta noi ci mettiamo la politica, perché quella si decide discrezionalmente, mentre tutto questo è l'effetto del venir meno degli ordini sul mercato domestico. È la politica che ha l'enormemente accresciuta pretesa fiscale, è la politica che spaccia riformette come la riforma del lavoro, che diminuisce la domanda in entrata per i maggiori aggravi e di fatto tanto casino, ma non è che modifica. Che poi la disciplina è uscita, e di questo paga anche il lavoro dipendente insieme all'impresa. Per questo avevamo scelto di avere come ospite Campofranco, e il ridicolo è che il nuovo esercizio in cui si è messo, quindi per questo dava poi solidarietà ai colleghi imprenditori, perché si dichiarava costernato dei nuovi doveri fiscali e tributari di sicurezza che deve adempiere col suo nuovo esercizio commerciale, però l'alluvione delle piogge sta combattendo in queste ore con l'acqua dentro, e quindi vi ho solo voluto una lettera che serviva a me e a Radio 24 per farvi riflettere sul fatto che non siamo degli unilaterali porta acqua alla sola giornata dell'impresa, anche se senza impresa, ragazzi, non c'è lavoro. Questo vorrei essere chiaro. Allora, ospite invece successivo, vediamo di capire in questa giornata, non mi avete dato, eccolo qua. Allora, abbiamo con noi Maria Gorni, che è presidente di ConsoBiomed, il consorzio di una trentina di piccole e medie imprese del biomedicale, che tutti hanno imparato purtroppo dopo il secondo sisma del 29 essere uno dei settori più colpiti, più presenti nelle reti distrettuali delle aree colpite dal sisma del 20 e poi del 29. Allora, saluto e ringrazio Maria Gorni, e buongiorno, abbiamo qui come ospite perché nei giorni scorsi, di fronte ai provvedimenti del governo, abbiamo visto una dichiarazione che come presidente del ConsoBiomed Maria Gorni ha fatto, dicendo: stiamo ripartendo e non siamo stati ad aspettare le leggi, se no eravamo morti. È andata veramente così? Sta ancora andando così? Che cosa c'è che non funziona secondo lei nei provvedimenti che sono venuti? I tempi, i modi con cui sono stati scritti? Sì, sta ancora andando così. Praticamente se io avessi dovuto... aspettare i famosi documenti, chiamiamoli così in generale perché ancora non si capisce di che cosa si tratta, ma comunque un documento che certifichi che un dato stabile è agibile, e io sarei ancora fermissima. Cioè praticamente dal 20, quindi guardate quanti giorni sono passati, più di 20 giorni, io avrei dovuto rimanere ferma con gli ordini, ferma con... Io vendo in 76 paesi, anche se sono molto piccola, quindi immaginate un po' che situazione si sarebbe venuta a creare. E io ho chiamato dei tecnici, io privati, per giudicare gli stabili. Uno è stato giudicato inagibile, e aspettate le 72 ore che erano di legge del sindaco, come decreto del sindaco, abbiamo con la famiglia, ripeto, abbiamo praticamente buttato giù tutto dalla finestra su dei materassoni, e quattro giorni dopo eravamo operativi, praticamente dal momento in cui è scattate le 72 ore, tendoni, aria condizionata, telefoni, computer e spedizioni. ma abbiamo fatto così un blitz, sa? Praticamente non avremmo dovuto entrare, ma l'abbiamo fatto perché altrimenti l'azienda, cioè, abbiamo già visto dei concorrenti che hanno telefonato, la situazione sarebbe stata gravissima. E quindi noi siamo reoperativi, però nello stesso tempo, nell'altra situazione che è quella che riguarda la produzione, io adesso le ho parlato degli uffici, la produzione, i vigili hanno guardato, hanno detto qui non c'entra nessuno perché è inagibile, e lì abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo portato fuori il più possibile, fortunatamente io ho un'azienda a Brescia dove ho potuto portare tutto là. C'è stato un trasportatore, fra l'altro, che mi ha gratuitamente fatto due viaggi con container molto grandi, e quindi insomma ho risolto, non completamente perché sto ancora aspettando l'agibilità della parte del prodotto finito, però appunto i tecnici che ho chiamato mi hanno detto è agibile, io faccio entrare solo lì vicino alla porta le persone che devono preparare i pacchi e il resto andiamo noi a prenderli, perché magari c'è chi si azzarda, c'è chi no, anche se è stato giudicato sicuro, ma un certificato in mano ancora non lo abbiamo. Quindi posso dire, azzardando un'ipotesi no malevole, che non desidererei mai che si avverasse, ma se una norma precisa in mano e un certificato in mano ancora di agibilità non ce l'avete, poiché il procuratore di Modena ha aperto inchiesta a catena, anche se poi ha detto, dopo averla annunciato, che non ha fatto ancora niente, cioè se sareste anche esposti in teoria a qualche azione, qualcuno vi potrebbe dire che non siete in regola, che state facendo? Sicuramente, ma ripeto, quello che le dico l'ho fatto io, ma io ho parlato con tanti piccoli imprenditori qui della zona che ci conosciamo tutti, hanno fatto tutti la stessa, c'è gente addirittura che è entrato, le dico, di sera in un ufficio che era una situazione, naturalmente è il titolare che l'ha fatto, però è entrato con le chiavi di notte per non farsi vedere, per andare a prendere delle cose importantissime che i vigili non avrebbero potuto andare a prendere perché ritenevano l'immobile pericolante. Insomma, è stato fatto un po' da tutti questo, glielo dico proprio chiaramente, inutile nasconderlo. Senta, posso chiederle un giudizio sulle polemiche che erano immediatamente scattate e sono rimaste per un po', prima che riuscissimo a riequilibrare e a far capire che gli imprenditori non sono matti, ma che lì la volontà di ripartire per non perdere lavoro, ordini, accomuna tutti, dipendenti, collaboratori, tutti sono consapevoli di che cosa vuol dire essere tagliati fuori perché bisogna star fermi perché è arrivato un terremoto. Allora, però, siccome sono partite immediatamente le polemiche puntando il dito contro gli imprenditori irresponsabili che volevano... disposti a sacrificare i loro dipendenti perché pensano solo al denaro e a ripartire. In realtà a casa vostra, nelle vostre comunità, con i vostri dipendenti, questa polemica è mai nata o è una cosa artificiosa che è riguardato solo l'esterno? Mai nata, anzi c'è chi ha voluto partecipare assolutamente a questa diciamo così prelievo di prodotti nelle zone non sicure, c'è stata una persona che assolutamente ha voluto partecipare, quindi io ho detto della gente che hanno una consapevolezza che se la rimoschiude perdono il lavoro, sono anche disposte, le donne all'inizio erano un po' perplesse per la famiglia lasciata qui, ma andare tutti i giorni a Brescia, perché io sto costruendo un immobile nuovo per cui io sono sicura che tornerò, sanno che prima o dopo finirà questa situazione, sono disposta ad andare tutti i giorni a Brescia dove ho l'altra azienda, il che non è poco perché sono quasi due ore d'andata e due ore di ritorno, e c'è una solidarietà e una consapevolezza perché sanno che l'azienda è anche loro, cioè non c'è questo tipo di polemica nella mia azienda, questo tipo di situazione io non l'ho vissuta, anzi ho vissuto una grande solidarietà. Bene, io non posso che ringraziarla e dire che per qualunque cosa Maria Gorni, insieme alle altre trentina di piccole imprese che fanno parte del consorzio di cui è presidente Maria Gorni, consentiteci di dichiararvi a vostra disposizione, vorremmo fare purtroppo molto molto di più che dare il microfono, per il momento non possiamo. Grazie a Maria Gorni e a tutti coloro che lavorano con lei in questa parte d'Italia che sta dimostrando di sapere come si fa a tirarsi su le maniche, che è la prima cosa prima di criticare gli altri, tirarsi su ciascuno le proprie. Pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, le borse volano, la Cina dice bene, l'Unione Europea sulla Spagna, ma ora misure più decise, ma intanto come hanno reagito poi i commentatori e i giornali tedeschi ai 100 miliardi delle banche spagnole senza tutto tutto quell'ambaradan di condizioni umilianti e di controlli della Troica, del Fondo Monetario alla Grecia. Per esempio, sulla Frankfurter Allgemeine, Heike Goebel scrive che questo accordo per il settore bancario e per il suo salvataggio in Spagna pone termine a un principio sin qui dichiarato fondamentale dai tedeschi, che gli aiuti possono essere forniti solo in cambio di una condizionalità molto stretta, cioè di condizioni a cui sottoporle molto rigorose, certificate ex ante molto pesanti per i governi che li chiedono e che sono costretti a subirli di fronte ai loro elettori, perché questa è una delle finalità da sempre del meccanismo di forte condizionalità degli aiuti. E a un certo punto Heike Goebel scrive sul Frankfurter Allgemeine, aperte virgolette, anche l'Italia sarà certamente felice di prendere denaro senza più condizioni pesante, e perché l'Irlanda non dovrebbe domandare che le sue condizioni fissate in anticipo e molto più pesanti non siano allentate. Ecco a che cosa ci porterà il caso spagnolo. E sul Bild Ugo Müller-Vogue scrive che questo è solo l'inizio di un processo a cui oramai tutti gli europei non tedeschi non fanno che inneggiare, prendendosela col cieco crucco che li ha messi nell'angolo, ma in realtà si pagherà di più e tutti coloro che hanno, pubblici e privati, fatto eccessi di debiti, perché persino la Bild riconosce e capite che in tutti i paesi i problemi non sono uguali, ripeto, in Spagna eccesso di consumo privato immobiliare finanziato a debito, in Irlanda bolla immobiliare e bolla bancaria, in Grecia problema di bilancia commerciale dei pagamenti, in Portogallo di bilancia dei pagamenti, da noi è lo Stato il problema, l'eccesso del suo consumo finanziato a debito, e quindi le ricette non possono essere tutte uguali. Chi vi dice che il tedesco ha l'origine del problema italiano sta difendendo come un parassita nella criniera del cavallo pubblico quel cacchio di cavallo che in realtà è un somaro, perché vi drena dalle tasche e si è espanso come nessun altro paese avanzato. Non c'è un paese avanzato che abbia la pressione fiscale sul PIL legale come la nostra, che non è 45%, sul PIL legale è il 54%. Per questo, proprio per questo, oltre che darvi gratis un contatore del debito pubblico in perenne aumento del 2.700 euro, e per me bisognerebbe metterlo di fronte a Palazzo Chigi e alla Camera dei Deputati, fino a che non si fermerà quel contatore vuol dire che noi stiamo morendo ed è lo Stato che ci uccide. Allora, oltre questo vediamo gratis anche la modalità per farvi il conto delle vostre tasse. Andate sul sito www.costodellostato.it e troverete con la vostra età, la vostra quindi età attesa, la vita attesa, perdonatemi, lo scaglione di reddito a cui in cui siete, potete immettere questi dati e troverete che il modello, di cui vi diamo anche le spiegazioni come è stato elaborato, quindi perché non possiate credere che sia un trucchetto da liberisti, vi dirà quanto avete pagato, quanto ancora dovrete pagare con le vostre attese di vita media, che cosa in cambio vi darà lo Stato a prezzi 2010 e che cosa vi avrebbe dato a prezzi molto più bassi la media dei paesi europei. Allora vi potrete fare due intelligenti riflessioni, se non immediatamente comprare online il libro Sudditi, di cui è curatore Nicola Rossi, e che potete comprare come in formato ebook su amazon.it, ebookizzati e ebooks Italia, e vi consiglio di farlo davvero, perché il problema italiano, ciò che non entra nella testa e nelle parole di Mario Monti, stupendomi molto, è esattamente il problema dello Stato e non quello invece che riguarda altri paesi europei. Quando dico il problema dello Stato, ci sono mille modalità per farvi riflettere. Per esempio, tra il 2001 e il 2009 i lavoratori del pubblico impiego sono diminuiti di quasi 111.000 unità, non sono aumentati, sono diminuiti, erano 3.637.503 nel 2001, all'inizio del 2010 erano 3.526.586, qui mancano l'aggregato più ampio, bisogna aggiungercene altri 600.000 che sono di enti e società controllate, ma diciamo l'aggregato ristretto dei dipendenti pubblici era sceso di 110.000 unità dal 2001 al 2009, eppure il costo totale delle masse salariali di questi diminuiti dipendenti pubblici negli stessi anni è aumentato di 39,4 miliardi di euro. Lo capite? Di 39,4 miliardi di euro. Ecco, che cosa vuol dire? Voi direte l'inflazione? No, no, perché con l'inflazione questi 39,4 miliardi di euro, che sono un aumento del quasi 30% rispetto al totale dei 144 miliardi che è la massa retributiva sul totale della spesa corrente italiana, avrebbe dovuto aumentare di 14 miliardi di euro in meno. Quindi con 110.000 persone in meno, 40 miliardi di euro in più. Capite? 40 miliardi di euro sono quasi 3 punti di PIL in più. È colpa dei dipendenti pubblici, ce l'ho con loro? No, neanche per idea. Io rispetto il lavoro dei pubblici e dei privati. È colpa di chi, presiedendo all'evoluzione, al controllo dell'apparato pubblico italiano, cioè i massimi livelli apicali amministrativi, quelli che oggi Monti difende nel merito nella sua lettera alla Repubblica, questa è l'espansione che ci succhia il sangue come in nessun altro paese avanzato. Il problema è quello dello Stato. Io per questo mi arrabbio tanto. Tutti dicono alzi troppo i toni, alzi troppo i toni. Ma come alzo troppo i toni? Di fronte alla negazione della verità, di fronte al fatto che anche un bambino potrebbe prevedere che in queste condizioni record di pressione fiscale aumentarla ulteriormente deprime non solo il PIL, ma fa anche decrescere il gettito, come puntualmente è avvenuto e puntualmente sta avvenendo. E noi dobbiamo sentirci dire che la critica a questo è la critica al rigore, e Monti deve su questo inscenare la commedia di mettere sullo stesso piano i partiti che vogliono mettere i loro somari nelle autorità di controllo di gestione del mercato con chi come noi invece chiede cose diverse? Non credo che dobbiamo fare cose simili. Quindi io per questo continuerò a resistere, anche a nome vostro o di molti di voi che la pensano così, e a scegliere ospiti e temi che continuino a battere dal nostro punto di vista ciò che è rimasto come prima, come ai tempi di Tremonti, come ai tempi di Visco. Non è cambiato in niente questa impostazione di politica economica. Noi riteniamo di avere un fondamento e che questo debba unire gli italiani al di là della destra, della sinistra, perché dopo ci si dividerà, ma prima bisogna fermare questa ingente valanga di Stato che ci leva la possibilità di tenere aperte le imprese, di lavorare, di avere un futuro, di crescere i nostri figli. Questo è il problema di fondo. E sentiamo a questo punto, direttamente le informazioni sul traffico, poi andiamo con l'ultimo ospite. 9 in punto, la versione di Oscar. Mentre tornano i Doors, abbiamo come ospite il direttore di Confindustria Ancona, Filippo Schittone. Perché? Perché è nata ad Ancona la fondazione Confamily Onlus. Perché? Perché anche in quel caso le imprese, e Confindustria in quel caso, ha pensato di fronte alla crisi a dare una risposta al di là, al di fuori dello stretto recinto delle proprie competenze come associazione d'impresa, ed è quindi nata una fondazione che si chiama Confamily Onlus. Schittone, perché questa fondazione, quali sono i suoi scopi? Ma innanzitutto buongiorno a lei, radioascoltatori. Perché questa fondazione? Perché siamo consapevoli che dopo 4 anni di crisi pressante nel nostro territorio, l'abbiamo descritta come crisi nella crisi, tra l'altro perché abbiamo avuto una grande emorragia in tutta la filiera dell'elettrodomestico che ha determinato quindi scompensi occupazionali notevoli, bisognava quindi introdurre e provare a dare risposte che certamente non sono risolutive, ma che testimoniano la grande passione, il grande anche senso di responsabilità che la categoria degli imprenditori di questa provincia ha sempre dimostrato e continua a dimostrare. Quindi a fine del 2010, su lo stimolo di 6-7 imprenditori, per di più di età abbastanza giovane, questo ci tengo a sottolinearlo, poi se avremo tempo li citerò, nasce l'idea di dare vita a una fondazione. L'associazione raccoglie questo stimolo deliberando che questa fondazione prenderà corpo solo nel caso in cui ottenga il riconoscimento 5 per 1000 Onlus, quindi diversamente si rinuncerà a questo tipo di progetto, e oggi siamo felici di poterla raccontare. Raccontare perché il nostro obiettivo è a settembre di partire con la prima call per dare un sostegno alle famiglie dei lavoratori e delle persone che avendo un posto di lavoro in aziende private in stato di difficoltà economica, anch'essi rischiano per n motivi il disagio economico-sociale. Pensiamo alle persone che sono in stato di mobilità, di cassa integrazione a zero ore e via discorrendo, che si trovano a dover affrontare e gestire spese straordinarie per la gestione della famiglia. È un intervento che non vogliamo contrapporre logicamente all'incentivazione, ai sussidi che già esistono nell'ambito pubblico, ma è un intervento che diventa complementare, quindi un'ulteriore risposta per evitare che ci sia un disagio economico-sociale e un ulteriore piccolo contributo affinché la pace sociale di questa provincia continui a rimanere un modello, perché devo dire la verità che questa provincia è una provincia che fino ad oggi è riuscita ad esprimere una capacità di confronto e di dialogo anche di fronte alle crisi che credo sia meritevole di attenzione. E allora io personalmente intendo ringraziare queste le sette aziende iniziali e i sette imprenditori che hanno lanciato questa idea, cioè Emiliano Baldi, Beatrice Garofoli, Mirko Panzarea, Claudio Schiavoni, Vincenzo Galeassi, Marco Gialletti e Luca Gastreghini. E ringrazio anche la Banca Popolare di Ancona, il direttore Luciano Goffi, perché la loro intenzione è quella di estendere il numero delle imprese dell'area dell'Anconetano che si impegnino in questa iniziativa. E questa fondazione con Family Onus lavorerà con due conti correnti, uno per la gestione e uno per la raccolta di donazioni. La mia opinione è che più le diverse associazioni di impresa, solo quelle di Confindustria, sto parlando del sistema Rete Imprese Italia, quindi artigiani, commercianti, eccetera eccetera, più riescono a capire che nella crisi, oltre ai tradizionali servizi, ai propri iscritti, bisogna fare la coesione sociale e l'unità che lo Stato dall'alto non riesce a dare con le sue polemiche e le sue accresciute pretese, più noi difendiamo il valore comune e la capacità di saperci guardare negli occhi e dare una mano, respingendo le campagne dell'odio di chi ci vuole dividere, innanzitutto lo Stato che ci vuole dividere tra percettori di reddito dipendente che perdono il lavoro, imprenditori che penserebbero semplicemente a delocalizzare o a evadere le tasse. Non è così, è la forza vera del più della tradizione economica e imprenditoriale del nostro paese, è fatta di tutt'altri valori, di valori condivisi. Quindi secondo me iniziative come questa, con Family Onlus, nata all'interno del sistema Confindustria di Ancona, dovrebbero un po' essere l'esempio. Non spetta a me dirlo, ma più iniziative di questo tipo ci saranno, più gli italiani sapranno uscire con la propria forza condivisa, tirandosi su le maniche da una crisi che purtroppo colpisce il mercato domestico con una violenza molto più intensa di quella del 2008-2009. Quindi grazie a Schittone. Sentiamo due rapide telefonate. Luigi da Pisa, prego Luigi. Sempre rapido, quando vi vedo comunque. Senti, io volevo dire tre cose. Uno, nello Stato sono diminuiti il pubblico impiego, ma sono aumentate le cooperative esterne, quindi il posto è rimasto pressoché uguale. Sono cambiate le persone, ma sono cambiate in negativo perché sono sottopagate nelle cooperative. Due, lo Stato manda le tre pazze, io ne ho ricevuto due o tre, ma non ho il tempo sicuramente di dirgliele. Una, quelle sul presunto spese superiore al mio reddito, ma non ho tenuto in considerazione soldi che lo Stato stesso mi dà. Quindi è uno Stato che non sa nemmeno quello che fa. Tre, le voglio dire una cosa, con la delocalizzazione è vero che è utile, ma è anche vero che poi fa parte di quell'avvitamento fra meno posti di lavoro, più tasse, e quindi questa nazione, se non cambia regime e il governo non prende decisioni vere, sarà destinata a fallire. Grazie. Cioè Luigi è stato sintetico, ma non proprio una raffica di ottimismo, tanto per poi criticare chi critica me. Tonino, che chiama dalla provincia di Varese, prego. Buongiorno signor Oscar, visto che nella vita ho avuto molta sfortuna perché ho perso la moglie molto giovane, no? E purtroppo ho due CUD perché mi danno una piccolissima, certo, pensione, ecco, no? E mia figlia, volendomi aiutare facendo dei piccoli lavoretti saltuari qua e là, ho fatto la denuncia dei redditi quest'anno, perché sono obbligato a fare il 730, sono uscito di 16 euro secondo il governo sono uscito, ecco, mi tocca pagare 2700 euro perché sono uscito fuori. 2700 euro per 16 euro. Tonino dalla provincia di Varese ci ripropone la vera risposta a chi dice che ai vostri bambini nelle scuole vanno fatti ripetere le fiscostroche. Vergogna uno stato simile. Molti di voi pensano che io lo faccio per politica. Vi sbagliate, lo faccio per difendere quelli di voi che devono essere liberi, come è giusto, di votare quello che vogliono. Io mi semplicemente voglio che tutti capiamo che non è vero che non c'è alternativa a uno stato di questo tipo e che uno stato di questo tipo non può avere la presunzione per essere fondamento di alcuna etica pubblica. E lui la negazione dell'etica pubblica è un accrocchio di gente, non quelli che ci lavorano dentro, ma chi lo guidano, che pensa solo ad accrescere la loro capacità di diminuire il nostro reddito. E così Tonino da Varese, 16 euro oltre 2000 euro. Che schifo, che scandalo, che vergogna. Appuntamento per tutti, a domani. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.